l'altra Europa. Benvenuti all'altra Europa, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa. Stanno arrivando le tragiche notizie dal Giappone, che Radio 24 sta seguendo minuto per minuto, ampia disponibilità qui durante il programma nel caso di aggiornamenti importanti. Noi però lasciamo da parte per questa oretta il Giappone, ci concentriamo sull'Europa che raccontiamo a modo nostro ogni settimana, un programma in collaborazione con Euronet, euronet.eu, se volete conoscere meglio questo network che affronta, che parla dell'Europa con tante lingue diverse, tanti approcci diversi. 349-238-6666 per i vostri sms, oppure facebook.com/l'altra Europa sono le nostre pagine ufficiali in Facebook che aggiorniamo in diretta segnalandovi tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Si parte, oggi si parte dal Kosovo e andiamo a scoprire questa nazione con un occhio molto particolare, l'occhio del Grande Fratello. Yeah, ladies and gentlemen, spia Kosovo s'dy. Kosovo sotto l'occhio del Grande Fratello è il titolo di un bel articolo che abbiamo trovato sul sito balcanicaucaso.org, l'osservatorio dei Balcani e del Caucaso, sito che abbiamo già pubblicato in Facebook, a firma di Zoe Salander. È una psicologa italiana che vive in Kosovo e ha analizzato la popolazione kosovara, quello che è un po', ha fotografato quello che è un po' lo stato della nazione attraverso il Grande Fratello, che è oltre una metafora, è veramente può essere preso ad esempio di una società giovane, di una società che si sta formando con le proprie paure, le proprie abitudini. Ha fatto questo bel parallelismo tra il programma televisivo probabilmente più famoso al mondo, si è appena conclusa l'edizione kosovara, e gli umori di una nazione che si sta formando. E Zoe Salander è qua con noi, ciao Zoe. Ciao Federico. Ciao, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, Grande Fratello, tutti sappiamo che cos'è come format televisivo. Se ho capito bene, si è appena conclusa la seconda edizione in Kosovo. Esattamente. Lo scorso 26 febbraio si è conclusa la seconda edizione della Spia Kosovest, perché l'edizione kosovara del Grande Fratello non è esattamente quella degli altri paesi che hanno potuto acquistare il formato di Endemol, è una versione casalinga. Cioè? Hanno fatto una sorta di plagio. Allora, facciamo un piccolo riferimento al piano di realtà. Il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia nel 2008, ma non è ancora riconosciuto da tutti i paesi. Sì. E quindi analogamente la necessità di rappresentare la propria autonomia e indipendenza nazionale è passata anche attraverso il Grande Fratello. E come fare? Si è ridisegnata la versione del Big Brother secondo i canoni della tradizione kosovara. La spia, in albanese di Kosovo, significa casa. Sì. E il padrone della casa, Isoti Spis, è quello che rappresenta il Grande Fratello, cioè l'occhio che guarda, ma anche che ordina agli ospiti quello che devono fare. Li punisce, li premia, li osserva. Ok, quindi un grande burattinaio anche di fatto, no? Che insomma tutto vede da delle consegne. Okay. Tutto vede, tutto vuole, perché come dico nell'articolo ci sono delle attività che in qualche modo sono particolarmente originali di questa versione. In qualche modo io vedo nell'entrata dei Tarzan picchiatori. Sì. Nella casa è un gioco, naturalmente. Due persone travestite da Tarzan con dei bastoni entrano all'improvviso nella casa e senza nessun preavviso e iniziano a picchiare a suon di musica i partecipanti. quando la musica si ferma, i partecipanti possono a loro volta picchiare i picchiatori, ma senza bastoni. E in qualche modo ci sono anche nei turni durante la notte, per parlare al pupazzo di neve sotto la neve, i residui di un'esperienza post-conflitto ancora molto viva, certo, che in qualche modo questi giochi cercano di rendere attuale, per poi effettuare una catarsi, forse. Zoe, ma ne è uscita una rappresentazione reale, appunto in questo Grande Fratello, di quella che è, di quella che è un po' l'identità kosovara, se così possiamo definirla? Beh, allora, io non penso che si possa prendere il Grande Fratello come... Lo spero, me lo auguro. Di una nazione, assolutamente no. Però io ho parlato col direttore artistico del programma, con il regista, Gens Dobroschi, che mi ha raccontato la genesi del programma e anche le intenzioni che hanno animato il casting e la realizzazione. E prima di tutto il fatto di poter competere con paesi confinanti come la Serbia e l'Albania, che avevano il vero Big Brother, era diventato molto importante per dimostrare che anche il Kosovo può farlo. E la famiglia Muja ha finanziato di tasca propria la gran parte delle spese, includendo anche la location. Però quello che Gens dice è che nella scelta dei concorrenti si è voluto proprio fare uno sforzo per dare la possibilità alle persone di vedere una rappresentazione collettiva di questo paese, molto giovane naturalmente, perché il Kosovo ha una maggioranza preponderante di giovani, è il paese più giovane d'Europa, e possibilmente provenienti da tutte le parti del Kosovo, infatti, anche quelle che politicamente non sono ancora incluse. Esatto, leggevo anche una descrizione che ci hai fatto dei personaggi, per esempio questo Adi, Macho Man versione kosovara con passato opaco tra la Svizzera e la Russia, era bella anche come etichetta. Zoe, ti ringrazio tanto per averci dato un assaggio del tuo lavoro. Invito veramente i nostri ascoltatori a leggere il tuo articolo Kosovo sotto l'occhio del Grande Fratello, pubblicato sul sito balcanicaucaso.org, perché è molto bello, insomma, un'altra visione di una giovane nazione. E complimenti a te per il tuo lavoro. Ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Grazie e buon sabato. Io ti ringrazio moltissimo. Ciao Zoe. Ciao, buona giornata. Grazie. Ciao. facebook.com/l'altra Europa, ho caricato anche un paio di link relativi a dei video presi dal Grande Fratello kosovaro. Insomma, anche questo è raccontare il nostro continente, la nostra unione, la nuova Unione Europea, che andiamo adesso invece a sondare, e lo facciamo con l'Eurobarometro. Che cos'è l'Eurobarometro? È uno strumento che è stato indetto nel 1973, se non erro, quindi già da un po' di anni. Uno strumento che misura quella che è l'opinione pubblica dell'Unione, insomma, quelli che è un po' il polso reale del pensiero, del sentimento anche della popolazione europea. Eurobarometro che periodicamente pubblica anche quelli che sono i risultati di questi sondaggi, e diventa una sorta di strumento molto indicativo anche per le scelte europee, per testare quello che è il pensiero comune. Per capire bene come funziona questo strumento e anche avere un piccolo assaggio di quelli che sono i risultati appena pubblicati, abbiamo invitato Emilio Dal Monte, vice direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, capo del settore comunicazione. Ciao Emilio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Senti, Emilio, uno che l'Europa la conosci benissimo, da quanto la frequenti? Io ho frequentato, ho sofferto a Bruxelles per 30 anni, adesso sono all'ufficio di rappresentanza qui in Italia a Roma da qualche mese e ci sto bene. Adesso insomma ci facciamo anche un po' di affari tuoi, ma è vero che ti sei fatto Bruxelles, Roma, Emilia, la Romagna, tu sei un romagnolo, più volte in bicicletta? Certamente, è verissimo, me la sono fatta 4-5 volte così per vedere come funziona l'Europa dal vero, per parlare con la gente, mettiamola così. Fantastico, quanto tempo ci vuole? 10 giorni.

Beh, l'opinione pubblica sì, se ne sta iniziando a parlare abbastanza. Il Sunday Telegraph, che è uno dei quotidiani più famosi qui in Inghilterra, ha lanciato addirittura una campagna Stop the Squatters, perché ultimamente, come appunto dicevi prima, hanno occupato due pezzi grossi, hanno occupato la casa di Guy Ritchie e la casa del figlio di Gheddafi, che è una villa da 10 milioni di sterline ad Hampstead, che è una delle zone più posh, come le chiamano qui a Londra, che ha addirittura una piscina, un cinema privato e adesso anche una dozzina di squatters che vivono dentro. Insomma, sono squatter VIP, direi, cioè nel senso che anche le loro aspettative stanno crescendo nella ricerca delle case da occupare. E questo non è reato? No, la legislazione inglese da questo punto di vista è abbastanza particolare, perché è un reato civile ma è non un reato penale. E, addirittura, appunto, come dicevi, c'è un ufficio qui a East London che si chiama Advisory Service for Squatters, che è un'associazione di volontari che dà fondamentalmente assistenza gratuita agli squatters, fondata negli anni 60, e addirittura nel 76 hanno deciso di pubblicare questo Squatter's Handbook, che è un vero e proprio vademecum dello squatting, che spiega come entrare nelle case, come trovare le case, che cosa fare una volta entrati in una casa squattata, se vogliamo chiamarla così. Mm-hmm. L'edificio, spero, almeno, cioè, deve essere un edificio vuoto, o io posso trovarmi uno squatter in casa mia? Okay. No, l'edificio deve essere assolutamente vuoto, altrimenti lo squatter sta commettendo un'azione illegale. Me lo auguro. La casa deve essere assolutamente vuota, e lo squatter, una volta che entra in casa, fondamentalmente deve prendere nota del contatore del gas, della luce, di quant'altro, per iniziare a pagare le bollette. Quindi non è una cosa così illegale, perché comunque sia lo squatter si prende carico anche di tutte le spese della casa. E la cosa importante da fare è affiggere fuori dalla porta un legal warning, che è il cosiddetto section 6, scusate, che fondamentalmente afferma che ci sono delle persone che vivono all'interno, sono consapevole di avere il diritto di farlo, e che chiunque entra nella proprietà sta commettendo un reato. Può essere sfrattato uno squatter? Sì e no, nel senso che il legittimo proprietario di casa non può entrare in casa, altrimenti lui commette un reato, perché ci sono delle persone dentro. L'importante nell'esperienza di squatter, di squatting, è non lasciare mai l'appartamento o la villa, se parliamo di quella di Gheddafi, nel momento in cui non c'è nessuno in casa, il legittimo proprietario può occupare la propria casa. Ha qualcosa di surreale tutto ciò, Sì, no, è quello la parte interessante della cosa, perché sembra teatro dell'assurdo, però in realtà qui in Inghilterra è una cosa che abbastanza comune, cioè contano 150.000 squatters nella sola Inghilterra, quindi è una cosa abbastanza comune. Anche dal punto di vista artistico c'è sempre un bel fermento, diciamo, nelle case di squatting. Addirittura Grayson Perry, che è un artista che ha vinto il Turner Prize nel 2003, che è uno dei premi artistici più famosi qui in Inghilterra, negli anni 80 viveva in una casa squattata. Perfetto. Mattia, tu continua ad aggiornarti, tieni d'occhio i giornali, perché sicuramente torneremo su questo argomento, e soprattutto se ci saranno novità legislative, o magari se torna il figlio di Gheddafi che rivuole appunto la propria villa. Ciao Mattia, grazie, buon sabato. Ciao, grazie a voi, ciao, ciao. Educazione, un investimento per il futuro, e questo è il titolo del dossier di Euronet di questa settimana, l'argomento comune che è stato scelto da tutte le radio partecipanti ad Euronet.eu. Ci si interroga sulle politiche educative europee, ovviamente un argomento molto vasto. Oggi in Italia, proprio oggi, insomma, con la grande manifestazione, il tema della scuola è centrale. Tanti punti di vista, tanti approcci diversi. Noi vogliamo partire scegliendone uno, un po' particolare, però emblematico, dei ragionamenti che si stanno facendo a livello europeo. E per farlo abbiamo invitato la voce ufficiale della scuola di Radio 24, una delle voci più autorevoli nel panorama informativo, appunto per quello che riguarda l'argomento scuola. Diamo il benvenuto a Maria Piera Ceci, conduce Scuola in Controluce all'interno di Italia in Controluce. Ciao Maria Piera. Buongiorno Federico. Insomma, domandarsi sulle politiche europee legate alla scuola è un domandone, insomma, servirebbe credo un giorno intero per parlarne. Esattamente, sì, è così. Però sono tanti i ragionamenti che si stanno facendo e tu ne hai trovato uno in particolare che è una sorta di provocazione, sì, che però credo che nasconda altre finalità. Cosa sì, assolutamente. È uno spunto che arriva dall'Austria, perché qualche giorno fa l'Austria ha proposto, ossia il ministro per l'istruzione pubblica Claudia Schmidt, una socialdemocratica, ha annunciato di voler abolire la bocciatura. Detta così, insomma, sembrava, come dicevi tu, una provocazione. In realtà, andando a studiare un po' meglio l'argomento, andando anche ad ascoltare, a leggere quello che viaggia nei blog, nei vari siti che si occupano di educazione, l'idea non è poi così assurda. Intanto perché non è un'idea nuovissima in Europa. Pensa che non esiste la bocciatura già in Islanda, Norvegia e Gran Bretagna. Quindi, insomma, l'Austria non sarebbe poi il primo paese ad abolirla. E poi perché, se si guardano anche le motivazioni, tutto sommato insomma offrono degli spunti interessanti. Infatti, perché la Schmidt ha deciso di metter mano all'educazione austriaca? Dietro c'è sempre il famosissimo test, il famosissimo studio Oxe-Pisa, che sì, fa tremare tutti i paesi, fa tremare ogni anno anche l'Italia, perché insomma non è che ne venga fuori poi in maniera troppo lusinghiera. Ed è successo anche per l'Austria. Lo studio PISA del 2009 infatti posizionava l'Austria al 31esimo posto su 34 paesi, quindi davvero non un granché. Certo. E ha spinto il paese ad una riflessione sempre opportuna, perché i sistemi educativi vogliono sempre comunque un aggiornamento, una riflessione, cosa che da noi non si fa troppo spesso, si pensa magari soltanto a modificare il sistema educativo per ragioni economiche, ma purtroppo questo è un altro discorso. Allora, la socialdemocratica Schmidt, il ministro della pubblica istruzione, ha detto insomma riflettiamo perché siamo così in basso, e ha anche pensato che molto spesso la bocciatura è il primo passo verso l'abbandono degli studi. È una cosa abbastanza risaputa, sì, anche da noi, no? Se vieni bocciato 2-3 volte, alla fine gli studenti più deboli, con famiglie più deboli alle spalle, questo è molto importante, a volte mollano il colpo e lasciano il sistema dell'educazione. Quindi dice il ministro della pubblica istruzione austriaco, questo non è solo un problema per il bocciato, ma è un problema per tutto il paese, perché la scuola non è riuscita a portare un ragazzo fin dove dovrebbe, e questo è un punto davvero molto importante su cui forse non si riflette abbastanza. Esatto, insomma, si ragiona sull'abbandono e su quelle che sono anche le motivazioni, proprio un ripensamento di tutto il sistema educativo. E Maria Piera, ti devo lasciare, tu conosci un po' i tempi di Radio 24, non solo, perché abbiamo informazioni importanti che stanno arrivando dal Giappone. Grazie davvero per averci dato questo assaggio dell'Europa e la scuola. Ciao, buona giornata, grazie. L'altra Europa, rimaniamo in tema scuola e lo facciamo presentando una ricerca molto importante. Si parla di scuole, di Unione Europea, qual è il futuro dell'educazione e quali possono essere anche punti di svolta legati all'Europa e non solo per quello che riguarda il mondo della scuola. E per parlarne lo facciamo con Lello Macro, responsabile delle relazioni internazionali della UIL. La UIL, il coordinamento scuola, ha appena presentato questa ricerca, uno sguardo sull'autonomia scolastica nei paesi dell'Unione Europea, ovvero l'autonomia può essere proprio la chiave di svolta per quello che riguarda la crescita dei modelli scolastici europei. Ciao Lello, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Avete fatto un lavoro molto interessante e tanti numeri, perché comunque come sempre si parla anche agli addetti ai lavori, e però ci sono delle letture della vostra ricerca molto molto significative, perché non sono solo comparazioni tra i vari sistemi, ma ci sono proprio anche delle proposte, nel senso che, vista anche in chiave propositiva, è una lettura molto portata. Cioè, secondo voi l'autonomia scolastica può essere veramente la svolta per quello che riguarda l'educazione in Europa? Sì, certamente. Non a caso dei 27 paesi, 25 nel corso degli anni hanno introdotto, ognuno secondo le proprie caratteristiche. L'autonomia in tutte le scuole, praticamente soltanto Cipro e Malta non hanno norme specifiche sull'autonomia, tutte le altre le hanno, e quindi qualche motivo ci sarà. E la qualità dell'istruzione avanza parallelamente all'aumento dell'autonomia scolastica? Non è un procedimento lineare così netto e deciso, nel senso che poi in realtà l'autonomia scolastica è uno strumento, non è un fine. Mm-hmm. È uno strumento e bisogna vedere come viene utilizzato. Da noi è stata introdotta ormai tanti anni fa, con le famose leggi Bassanini nel 97, è stata realizzata 2 anni dopo nel 99, quindi tutto sommato abbastanza recentemente, e però mancano tutta una serie di strumenti di contorno importantissimi che avrebbero potenziato enormemente questo strumento, che sì, in prospettiva è uno strumento utilissimo, ma se mancano 5 o 6 cose che erano state promesse e non sono state realizzate, beh, la cosa cambia aspetto. Certo. Tanto per citare proprio rapidissimamente per titoli, insomma, gli organismi di governo delle scuole sono rimasti quelli del 74, cioè 37 anni fa, quando il mondo era un altro mondo, era diverso. Mm-hmm. No? Ecco. E quindi abbiamo queste strutture un po' elefantiache, un po' burocratiche, eccetera, completamente uguali per tutte le scuole. Gli organi di governo di una scuola elementare devono essere completamente diversi da quelli di un liceo o da quelli di un istituto tecnico, per dire, insomma, no? Certo. Perché le problematiche sono diverse, le missioni delle scuole sono diverse, eccetera. Gli organi collegiali delle scuole sono sempre gli stessi, anche questi qua, dal 74, e anche qui sono degli organi semplicemente burocratici. Insomma, nella ricerca avete anche ovviamente analizzato i soldi pubblici, chi li può ricevere, come vengono utilizzati i soldi privati, soprattutto l'utilizzo di questi soldi privati, insomma tante riflessioni, però c'è un faro, secondo te c'è una nazione che più delle altre potrebbe essere preso come riferimento perché avete valutato che insomma è una situazione particolarmente positiva? I fari esistono in mare, non nei nostri contesti, nel senso che purtroppo anche i servizi educativi come i nostri, in presenza di carenze sempre più grosse nei finanziamenti statali, si sono rivolti ai pubblici, ai privati. Addirittura con la legge 40, la finanziaria del governo Prodi, furono defiscalizzate le possibili donazioni, le elargizioni liberali venivano chiamate alle scuole, eccetera, proprio per cercare di aumentarle, proprio perché c'è in atto una riduzione costante delle risorse che il pubblico, lo Stato o anche le regioni, eccetera, danno alle scuole. Mm-hmm. Ora non è il finanziamento è una cosa importantissima, ma se mancano appunto le altre cose, la dimensione di rete nelle scuole, le scuole autonome piccole, noi abbiamo delle scuole piccole tutto sommato, che sul territorio sono atomizzate, nel senso ci sono 42.000 punti di erogazione del servizio nelle scuole, sono 10.800 scuole, però ognuna ha 4 sedi, 5 sedi, 6 sedi, insomma, una cosa impressionante proprio, cosa, no? Ecco, la cosa impressionante sono numeri importanti, credo che la vostra ricerca lo insegna, insomma sia fondamentale uscire anche dal proprio orticello, guardarsi intorno, non siamo la scuola peggiore d'Europa, abbiamo ottimi margini di miglioramento, insomma fari non ce ne sono, però prendere gli stimoli che arrivano dall'estero e dagli altri paesi può sicuramente essere utile, e anche esportare quello che noi abbiamo di buono nel nostro sistema, che comunque ci sono anche aspetti importantissimi. Grazie davvero a Lello Macro, uno sguardo sull'autonomia scolastica nei paesi dell'Unione Europea, questo è il titolo della ricerca della scuola Will. Ciao e buon sabato Lello, grazie. Grazie, buona giornata. Ciao ciao. Rimaniamo a scuola, anzi andiamo direttamente all'asilo, ci piaceva chiudere con una con una storia bella. Lei l'abbiamo già conosciuta qualche mese fa qui all'Altra Europa, si chiama Lea Tekla Krieg ed è un'insegnante di un asilo bilingue a Berlino, un asilo sperimentale, un asilo che insomma fa vedere come l'educazione deve partire dai più piccoli e anche lì si può, anche con i più piccoli si può sperimentare, perché la scuola è quella roba lì, quella cosa bella, quella cosa che ti fa crescere, quella cosa che ti riempie di stimoli e ti fa diventare grande, ti fa trovare il piacere di diventare grande. Lea, ciao e benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno Federico. Allora, quando ci hai contattato, quando ci siamo sentite l'altra volta, poi mi hai riscritto una bellissima mail in cui parlavi proprio a cuore aperto di questa tua esperienza professionale, di questo asilo bilingue dove lavori. Abbiamo pochissimo tempo, però credo che tu ci possa fare una sorta di trailer, darci un assaggio di quello che succede quotidianamente nella tua scuola. Perché è così particolare questo asilo? Sì, certamente. Sì, è un asilo, una scuola per l'infanzia bilingue, come detto, inglese e tedesco. Ho un gruppo di bambini, 15 bambini tra i 4 e i 5 anni, che seguo con una collega e io parlo solo inglese con i bambini e la mia collega solo tedesco. È una scuola semi-privata, ovvero privata, ma i genitori ricevono dei sussidi dallo Stato per pagare metà della retta mensile per i figli. È una scuola che consiglierei sicuramente perché ha molti punti di forza. Okay. Prima di tutto il fatto che è bilingue, appunto. Certo. E quindi i bambini sono esposti a due lingue a partire da 3 anni. Infatti molti di loro arrivano non parlando inglese e poi concludono il loro periodo alla scuola capendo, se non parlando benissimo, tutte e due le lingue. Oltre a questo, il nostro asilo ha anche come vantaggio il fatto che offre un programma molto variegato. Ok, di attività, quindi anche sì, tante attività manuali, attività nuove. La terza cosa, scusa Lea, ma devo chiudere perché abbiamo insomma il GR fra pochi secondi, certo. Dimmi. Ogni mese abbiamo un tema diverso, come la primavera, gli animali, le forme, i colori, eccetera. E quindi abbiamo... è sicuramente una scuola molto stimolante che offre un ambiente caloroso e creativo per i nostri bambini. Insomma, che è quello di cui c'è bisogno. Lea, grazie davvero, torneremo sicuramente da te per conoscere Berlino partendo dall'asilo e non solo. Un grazie a Claudia Carusi, a Margherita Ina che con me hanno scritto la puntata, a Giorgio De Luca oggi in assistenza, a Peter Bescapè alla parte tecnica. Noi ci ritroviamo qua sabato prossimo alle 10 oppure durante la settimana via Facebook nelle nostre pagine ufficiali oppure l'Altra Europa @radio24.it. Ancora ciao da Federico Taddia.